Non voglio fare una classifica su qual è la situazione, la realtà di lotta che potrebbe accentuare di più l'attenzione, perché comunque siamo tutti nella stessa banca, però qui si tratta di aerei. Quindi, da dove vengono i turisti? Da tutto il mondo, e come arrivano in aereo? Ora, per quanto riguarda le lotte circa la piana, l'inizio è stato molto concentrato sugli inceneritori, perché questa è una cosa che si protraeva avanti da anni per quanto riguarda l'immediatezza sulla salute. Però adesso vorrei concentrare l'attenzione su quello che è la situazione dell'aeroporto, perché si sta verificando un pericolo gravissimo per quanto riguarda la vita della piana. Cioè, tutta Firenze è dentro una specie di grande lavandino circondato da queste colline, dal quale, come diceva Antonio ieri sera, da Pistoia si vede che c'è proprio una cappa di smog che ci annoia tutti. Il problema dell'aeroporto è che è un progetto che purtroppo sta arrivando al suo termine, ma venderemo cara la pelle, nel senso che questa pista, questo allungamento di 2,5 km, dove ci sarà praticamente come conseguenza una devastazione territoriale incredibile. Cioè, questi pazzi stanno cercando di far passare come un modo per salvare i tre quartieri dove adesso ci sono i sorvoli, Peretola, Paracchi e Grozzi, sul quale Toscana Aeroporti, la Regione, il Comune hanno dato la possibilità ai sorvoli di aumentare in un modo disumano, di passarci anche alle 6 del mattino e anche la sera. Adesso si stanno presentando come la Fratelli Fratelli che li salva da questi disagi, di questi aerei che passano praticamente sopra il comodino a tutte le ore del giorno e anche della sera, e loro si presentano come quelli che li salveranno, costruendo una pista alternativa che li salverà da questi disagi. Prima li hanno provocato e ora che li hanno portati all'esasperazione si presentano come quelli che li salveranno, e presentano anche i comitati che da anni combattono contro questo scempio ambientale ed economico, perché utilizzeranno 150 milioni minimo dei soldi nostri per fare questa porcata, e dalla cittadinanza di questi tre quartieri, dopo averli portati all'esasperazione, li presentano tutti i comitati che lottano contro questa schifezza come delle persone che prima di tutto vogliono continuare a fargli vivere questo disagio, e poi come nemici del progresso. Purtroppo è vita dura quando non hai dietro soldi di Toscana Aeroporti, di Orecan, della Fiorentina, della Valle, non hai mezzi mediatici per far capire alla gente qual è la realtà delle cose, è un po' vita dura. Quindi ci ritroviamo con un aeroporto che non è solamente la costruzione di questa mega pista che imporrà l'affossamento di tutti quelli che sono i piccoli fossi che prendono l'acqua piovana da Monte Morello, dalla Campana. Cioè, ci sarà uno squilibrio intanto idrogeologico allucinante, poi ci saranno anche queste cose di compensazione, come la chiamano loro, che hanno una capacità incredibile di utilizzare un termine, un vocabolo, e stravolgerlo, pigliarlo per il culo in una maniera omicidiale, da far accapponare la pelle anche a Zingarelli. Non so se voi utilizzate internet, sapete cos'è Zingarelli. Niente, ci saranno queste, queste costruzioni, ci sarà una colata di cemento immensa fra aeroporto, Cittadella Viola, nuovo stadio, spostamento della Mercafield, dove adesso lo porteranno sempre lì, questa piccola piana della vista, e si porterà dietro anche grandi alberghi di lusso, centri commerciali, cioè un'area grande quanto il centro storico di Firenze, tutto lì dove già adesso c'è quella follia allucinante, non so gli architetti che cosa fumavano quando si sono inventati la nuova scuola dei marescialli, cioè una cosa che veramente prenda lo stomaco e non smetteresti più di vomitare, non tanto per il contenuto ma quanto anche per l'estetica delle cose, no? Perché non so se voi avete in mente il vialone del metano dove una volta ci si faceva legare la notte con le macchine e con i motorini, adesso c'è un disastro. Io vi invito a tenere veramente in considerazione tutte le iniziative del presidio non ceneritore, non aeroporto, perché siamo purtroppo a parte circondati da questi abitanti dei tre quartieri a cui hanno fatto questo lavaggio del cervello. Vi ricordo che la potenza mediatica del soldo, Della Valle si è permesso quest'inverno di mandare nel cartellone dello stadio, nella curva, nella curva che, insomma, della ferrovia, l'invito a tutti i tifosi di partecipare al comitato sì per la pista. Cioè, durante la partita della Fiorentina c'era questo cartellone gigantesco che invece di dire chi faceva gol e chi pigliava le volte in campo, c'era fate parte di tutto. Quindi la prossima iniziativa al quale io veramente vi invito ovviamente a venire è giovedì 7 alle ore 21 al circolo di Quinto Alto, Sesto Fiorentino. Ci sarà un'assemblea informativa dove noi tentiamo disperatamente di far capire qual è la situazione alla cittadinanza. Il problema qual è? Che ci sono gli assoldati del PD, di Toscana Aeroporti, Belgiani, sono tutti insieme appassionatamente, il Cellai, Forza Italia, Toscana Aeroporti, la Lega, il PD, c'è questa Macedonia micidiale di tutto il voto della politica italiana, tutti lì che vogliono l'aeroporto, cazzo che strano. Quindi niente, vedete di partecipare per favore alle iniziative del presidio, perché cioè, veramente è faticosissimo. Ci sarà l'assemblea informativa alle 21 giovedì e la domenica ci sarà il pranzo e ci servirà come autofinanziamento, perché noi non ci abbiamo la data di stampa. E poi c'è su Facebook, c'è la pagina del presidio, della piana, seguite le iniziative e dateci la mano.